Cos'è? Cos'è? Ma che colore è? Cos'è quel bianco intorno a me? Cos'è? Io non l'ho visto mai, starò sognando in guardia Jack. Ma cos'è? Cos'è? Dolcetto o scherzetto anche per i politici italiani. Cos'è? Ma chi sei tu che bussi alla porta? E chi sono? Je suis Beppe Grillo. Beppe Grillo nasce come una specie di comico fantasista. Ero, non so cosa sono diventato. I mostri non ci sono e gli incubi mai più. E tutto sembra bello come un cielo sempre blu. Io sento il dolce suono di canzoni intorno a me. Profumo di biscotti, odore di felicità.